Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Benvenuti a questa puntata speciale. Le interviste che vi proponiamo oggi sono state registrate durante il Festival dell'Economia di Trento dal 29 maggio al 2 giugno scorso. Bentornati a questo speciale dedicato al Festival di Trento, festival che si è concluso, festival che ha avuto tra i suoi punti forti la presentazione di alcuni libri di economisti di notevole prestigio. Tra questi Jean-Paul Fitoussi. Buongiorno Fitoussi. Buongiorno. Jean-Paul Fitoussi ha scritto con Éloi Laurent La Nuova Ecologia, Politica, Economia e sviluppo umano. Jean-Paul Fitoussi è professore dell'Istituto di Studi Politici di Parigi e professore anche alla LUIS di Roma ed è presidente dell'Osservatorio francese delle congiunture economiche. Il libro è dedicato alla ecologia politica e ha come sottotitolo Economia e sviluppo umano. Quindi sono in pratica quattro concetti: l'ecologia, la difesa dell'ambiente da una parte, la politica, e tutti sappiamo che cos'è, l'economia, e in questa fase di crisi forse qualche idea un po' più confusa l'abbiamo, e lo sviluppo è quello che tutti abbiamo come obiettivo. Come conciliare allora queste quattro cose, questi quattro elementi? Allora, forse il titolo dà questa impressione, ma ha fatto quello che questo titolo vuole dire, è che questi quattro elementi non sono separabili, non si può separarli. Perché il problema dell'ecologia, perché non si è risolto? Perché l'abbiamo pensato fino ad ora come se fosse qualcosa di separato. C'era la natura, c'era le risorse esauribili e dunque dobbiamo vigilare a questo. Ma questo è una conseguenza dell'attività umana, certo. È una conseguenza del modo di vivere insieme nella società, è una conseguenza delle decisioni politiche e del modo di produzione. Dunque, tutto è legato. Quello che chiamo ecologia politica è il sistema globale che ha quattro aspetti: economico, sociale, politico e ambientale. Quindi questo libro è anche in fondo un appello a non dimenticare l'ambiente in un momento in cui la crisi finanziaria pone altri obiettivi: l'obiettivo di rilanciare la produzione, di frenare la disoccupazione, di controllare l'inflazione, tutti elementi che sembrano non avere nulla a che fare con l'ecologia. Invece questo libro vuole essere un richiamo a dire che l'ecologia, che era un problema e che resta un problema, può essere anche in parte almeno la soluzione della crisi? Sì, io credo, e quello che scriviamo in questo libro, noi crediamo che se consideriamo il sistema globale con questo aspetto ecologico, allora è facile di uscire dalla crisi. Bisogna mettere gli atti e le parole insieme. Bisogna avere un piano di rilancio basato su quello che la gente vuole. Perché come fanno i mercati? I mercati provano di soddisfare i bisogni della gente. C'è un bisogno che i mercati non possono soddisfare, è il bisogno di ambiente e di ecologia, perché sono beni pubblici. Ma lo Stato è il fornitore di beni pubblici e può investire in questi beni pubblici, e servirà a due cose: a rimettere il sistema economico su piedi, a aumentare l'occupazione e a distribuire dei redditi. Ecco, ma in questa prospettiva si parla spesso del mercato che dal profilo economico è quello che la democrazia è dal profilo politico. Lei dice che bisogna mettere insieme le due cose, fare un mercato che sia anche una rappresentanza della democrazia, in cui la domanda e l'offerta non sia solo la domanda e l'offerta di beni, ma sia anche la domanda e l'offerta di beni pubblici, di beni collettivi, di beni come la qualità della vita, come il benessere. E questa è la prospettiva in cui lei vede questa unione tra democrazia e mercato. No, io credo che il mercato e la democrazia sono regiti da principi opposti. Il mercato è un euro, una voce. La democrazia è una persona, una voce. Dunque, il problema è che se non mettiamo insieme la democrazia e il mercato, il sistema andrebbe verso un grado di disuguaglianza intollerabile e dunque farebbe cadere la democrazia. L'abbiamo già visto, certo. L'abbiamo già visto negli anni 30. Dunque, e questo è il problema. Il problema è di capire che il capitalismo non può sopravvivere che se la democrazia lo regisce. Altrimenti va nel muro. Certo, c'è un altro aspetto di questo libro molto importante, il fatto che lei vede l'ecologia collegata anche alla possibilità di crescita dell'economia, mentre spesso si vede alla difesa dell'ambiente come un ritorno agli anni in cui non c'era l'industria, in cui non c'era l'inquinamento, in cui l'ambiente era rispettato dall'uomo anche perché non aveva i mezzi per rovinarlo. Quindi la sua prospettiva invece è che lo sviluppo tecnologico dovrebbe offrire i mezzi per difendere l'ambiente in una prospettiva di crescita complessiva dell'economia e quindi di sviluppo. Sì, soddisfare i bisogni della gente e crescere, anche se i bisogni sono di un ordine qualitativo. Per esempio, il bisogno di avere delle fonti energetiche pulite. È un bisogno qualitativo, ma bisogna che c'è della ricerca sulle nuove tecnologie dell'ambiente e delle energie per arrivare a questo risultato. E bisogna anche dire che se parliamo del mondo di prima, bisogna anche rammentarsi che la speranza di vita era di 35 anni. Vogliamo tornare a questo mondo? Non ci saremmo, a questo punto noi non ci saremmo. Lei, presentando il suo libro, ha fatto un esempio molto efficace. Se le risorse del mondo fossero divise equamente, ogni persona in questo mondo potrebbe avere un reddito di $400. Ora, ovviamente, è un'utopia questo pensare di poter dividere queste risorse in maniera equa. Però questa possibilità di una maggiore equità, di una maggiore giustizia, rientra nella possibilità di far crescere anche l'economia e quindi di risolvere anche i problemi che pone l'attuale crisi. Ovviamente, perché l'attuale crisi viene dal fatto che la gente che ha bisogno di spendere non ha i soldi per spendere. E dunque le imprese che hanno bisogno di vendere non trovano mercati. Allora, quando il livello di disuguaglianza diventa troppo grande, quelli che hanno bisogno di spendere non hanno i soldi, quelli che hanno i soldi non possono spendere di più. E allora che fanno? Fanno delle bolle sui mercati con il risparmio che non possono spendere. Se vogliamo che il sistema sia equilibrato, bisogna dare a quelli che possono spendere un reddito soddisfacente, perché loro hanno una vera integrazione sociale, una vera vita sociale, una vera capacità di progettarsi sul futuro. Quindi il mercato resta comunque un elemento efficace, necessario, ma il mercato deve essere... È uno degli elementi, non c'è solamente il mercato, c'è tutti questi beni pubblici, per esempio l'educazione, per esempio la sanità, che sono essenziali. Bisogna sapere che se mettiamo insieme l'educazione, la sanità e la giustizia, forse il 50% del PIL. Dunque bisogna capire che l'essenziale è fuori del mercato. Il mercato regisce una cosa che non è così grande che noi lo pensiamo. Sono tante altre cose. Un'ultima domanda che nasce da questo libro e nasce anche dalle sue osservazioni. Forse il modo con cui noi misuriamo la realtà va anche anche superato, perché questi beni pubblici, la stessa qualità della vita, la stessa difesa dell'ambiente, non sono misurabili con i parametri tradizionali, con il PIL, con il reddito, con la ricchezza. Come misurarli? In ogni modo non le misuriamo. Ma non li avvertiamo, le, però. Non le misuriamo. Per esempio, sarebbe molto facile di mettere in negativo del PIL la degradazione che facciamo subire all'ambiente, per esempio. Per esempio, anche si può essere un po' più intelligente dicendo che più la gente passa del tempo nell'auto tra il lavoro e la casa, certo, meno utilità ha. E questo non dovrebbe essere venire in aumento del PIL, ma in deduzione del PIL. Dunque, ci sono dei metodi che possono dare un'idea della produzione reale, utile per la gente, molto più efficace che quelle che abbiamo oggi. E in cui forse si possono mettere, speriamo, insieme anche le due cose, essere un po' più ricchi e anche un po' più felici, un po' più democratici, con maggiore partecipazione e anche più capaci di produrre e di rispondere alle esigenze di equilibrio del mercato. Esattamente, sì, esattamente. Non c'è un trade-off, non c'è un arbitraggio tra le due. La felicità non è di essere povero. È meglio essere ricchi e felici che esattamente, non poveri. Esattamente. Ecco, grazie Jean-Paul Fritoussi. Abbiamo parlato del libro La nuova ecologia politica, che è stato presentato qui a Trento e che Fritoussi ha scritto con Eloi Laurent. Grazie professor Fritoussi e buona Italia. Diamo ora la linea alle notizie sul traffico. Torniamo tra pochi minuti. Economia in pagina. State ascoltando una puntata speciale di L'Economia in Pagine. Le interviste che vi proponiamo sono state registrate durante il Festival dell'Economia di Trento. Bentornati ancora al Festival di Trento e ora parliamo con Nino Pesole. Buongiorno Pesole. Buongiorno, buongiorno. Nino Pesole è giornalista del Sole 24 Ore e ha scritto il libro Il Patto, un libro di cui si è discusso al Festival di Trento. Il Patto è un libro su cittadini e Stato dal conflitto a una nuova civiltà fiscale. Un libro che parla di uno dei temi più attuali, il tema delle imposte, il tema di chi evade le imposte e di come ristabilire un'equità tra chi le paga e chi non le paga, soprattutto facendole pagare a chi non le paga, e così potrebbero forse pagare anche meno chi fa il proprio dovere. Il patto, quindi, un patto di che tipo, Dino Pesole? Il patto che noi proponiamo è un patto di civiltà fiscale. Riteniamo cioè che sia possibile in questa fase storica che stiamo vivendo, anche alla luce della grave crisi economica che si è abbattuta su tutti noi, cominciare a impostare anche un diverso rapporto tra l'amministrazione finanziaria e i cittadini, che sia un rapporto non più conflittuale, non più basato sulla reciproca diffidenza, ma che a fronte di un recupero di efficienza dell'amministrazione finanziaria, che è nelle sue possibilità, quindi maggiori e più incisivi controlli, ma anche, diciamo, sostanzialmente un'attività ordinaria più efficace, si possa, d'altro canto, noi cittadini, aumentare anche il nostro livello di civiltà fiscale, perché uno dei problemi di questo paese è che non c'è una grande percezione, ad esempio, del fatto che pagare le tasse non sia proprio un optional, ma che sia un obbligo cui dovrebbero corrispondere dei servizi, indubbiamente. Esatto. E quindi il senso anche della partecipazione, di partecipazione dei cittadini, si è parlato molto in questo festival come un elemento che possa portare anche una maggiore responsabilità di ciascuno nel condividere le esigenze della società e quindi di uscire dalla crisi. Ma si parla molto appunto in Italia di evasione fiscale, del fatto che tutti i governi dicono cercheremo di diminuire l'evasione fiscale e con questi mezzi faremo nuovi investimenti, potremo finanziare nuove spese. Quanto è l'evasione fiscale in Italia e come si è andati avanti negli ultimi anni? Le ultime stime sono quelle del 2007 e parlano di un'evasione fiscale, diciamo, di imponibile sottratto a tassazione di oltre 100-110 miliardi l'anno. È una cifra imponente. Ovviamente non siamo gli unici nel mondo ad avere un problema di questo tipo. Il sommerso è una realtà, la cosiddetta shadow economy, è una realtà fotografata in gran parte dei paesi sviluppati. Da noi ovviamente c'è un problema storico, nel senso che l'evasione fiscale si è in qualche modo stratificata, consolidata, è stata un po' il frutto di alcune scelte di politica economica che sono state effettuate dalla metà degli anni 70 in poi. Abbiamo un sistema fiscale che è sostanzialmente sperequato. E soprattutto perché in Italia c'è una grossa fascia di economia sommersa, di lavoro in nero, che è strettamente collegato all'evasione fiscale. Esattamente. A fronte di questo però c'è un problema, che la pressione fiscale effettiva, che questi sono dati di Confindustria dello scorso anno, la pressione fiscale effettiva che grava su quanti pagano le tasse regolarmente, imprese, cittadini, e ce ne sono molti in questo paese, è effettivamente molto elevata. E questo perché? E qui veniamo, diciamo, al discorso fondamentale che noi vogliamo proporre. Da un lato perché abbiamo il cronico endemico problema del debito pubblico, che ci costringe ad avere una pressione fiscale elevata, e dall'altro appunto perché, avendo questa evasione così alta, in qualche modo i cittadini onesti devono far fronte con un eccesso di prelievo anche alla quota di tassazione, certo, che viene sottratta da chi non li paga. Chi non le paga. Infatti, c'è una tabella molto esplicita in questo libro sull'economia sommersa nei 21 paesi dell'OCSE, cioè tra i paesi a economia industrializzata, e l'Italia ha il primo posto con un 25%, no, in effetti è la Grecia che ha il primo posto con il 28,2%, ma l'Italia è molto ben piazzata con un 25,7%, ma anche altri paesi hanno quote rilevanti di economia sommersa in percentuale del prodotto interno lordo: la Spagna il 22, il Portogallo il 21,9, il Belgio il 21, però abbiamo anche paesi che hanno un'economia sommersa non a due cifre, sono pochi in verità, sono solo la Svizzera con 9,4% e gli Stati Uniti con l'8,4%. Ecco, Svizzera e Stati Uniti sono due modelli in fondo di economia legale, cioè di economia visibile, trasparente, in cui tutti fanno il loro dovere. Quali possono essere le ragioni di fondo, storiche, politiche, etiche, ideologiche, religiose? Io direi ragioni storiche, politiche e anche religiose. Ad esempio, negli Stati Uniti c'è una fortissima diciamo attenzione e vigilanza da parte dei cittadini al controllo sociale, che non vuol dire delazione, vuol dire che se per caso un cittadino negli Stati Uniti viene indicato come un cittadino che ha un comportamento scorretto, su di lui si esercita, come dire, una sorta di denigrazione collettiva, e questo è un controllo sociale importante. E poi, dal punto di vista fiscale, occorre dire che il sistema dei controlli in America è molto pervasivo. E anche delle sanzioni. E le sanzioni sono molto forti. Però non è solo questo. E qui veniamo al fatto culturale. Negli Stati Uniti, la Svizzera la conosco un po' meno, c'è effettivamente, diciamo, un'attitudine che deriva dalla formazione stessa del paese, come dire, a una coscienza civica più forte. Come dire, chi evade fa un danno all'intero, certo, paese, e dunque anche a noi stessi. Una caratteristica della Svizzera che io forse conosco un po' di più è il fatto che il fisco in Svizzera non è così incisivo, le aliquote fiscali sono particolarmente basse, e quindi pagare le tasse anche a fronte di servizi efficienti in fondo è ritenuto un dovere civico di ogni persona. E qui veniamo all'altro punto, perché pagare le tasse a fronte appunto del servizio che rende la pubblica amministrazione, anche di questo si è parlato molto negli ultimi anni, si è parlato molto delle iniziative del ministro Renato Brunetta per rendere più efficiente la pubblica amministrazione. A che punto si è, Dino Pesone? Si è al punto che il ministro Brunetta è stato approvato di recente, insomma, il disegno di legge delega, ora riceverà tra giorni il via libera definitivo e poi si attiverà la fase dei decreti legislativi. Quindi l'operazione di ammodernamento dell'amministrazione è in corso. Il problema qual è? È che nel nostro paese, qui noi nel libro abbiamo tentato in qualche modo di dimostrarlo, non basta approvare delle leggi, delle buone leggi, o delle leggi medie come impatto, poi bisogna effettivamente renderle applicabili. Ad esempio, c'è un problema di fondo: noi dimostriamo che ci sono delle ottime leggi che sono state approvate per migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione addirittura all'inizio degli anni 90, e però per gran parte sono rimaste inattuate. Dunque, qui il problema è cercare di mettere in moto dei meccanismi poi veri di applicazione sul campo. Certo. Perché se no restano lettera morta. Infatti non è solo questione di efficienza, ma anche questione di informazione e quindi di partecipazione dei cittadini. Come scrive Innocenzo Cipolletta, concludendo la sua introduzione, dice: è necessario che tutti ci assumiamo le nostre responsabilità operando per migliorare ciò che ci troviamo a gestire. Ricordiamo che Cipolletta scrive anche come presidente delle Ferrovie dello Stato, e impegnandoci per una maggiore trasparenza e informazione. Spesso i cittadini sono più pazienti di quanto si creda e accettano anche ritardi e impedimenti se sono messi nelle condizioni di conoscerne i motivi. Ecco, questo è un punto forse importante da mettere in risalto nel rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Molto spesso la pubblica amministrazione tende un po' a chiudersi, si tende un po' a nascondere al cittadino i reali problemi che ha e quindi a creare una barriera. Andiamo nella direzione giusta per vincere questa barriera? Occorre che il cittadino sia correttamente informato. Per farlo ci siamo noi giornalisti, ma anche secondo me lo Stato, il Governo, il Parlamento devono attivare una campagna precisa di informazione. Ad esempio, far conoscere ai cittadini i propri diritti. Ce ne sono alcuni di cui i cittadini stessi non sono consapevoli. Ne dico una, tanto per citarne una delle più clamorose e eclatanti. Se uno di noi va in un ufficio pubblico e richiede un documento e a questa richiesta viene risposto: è questo documento, non glielo posso esibire perché me ne serve un altro e lei deve andare nell'altro ufficio a richiederlo, bene, questa è una richiesta illegittima. Perché nella legge 241 del 90 è previsto appunto che i documenti che diciamo le singole amministrazioni già detengono debbano essere acquisite direttamente tra di loro. Ecco, come promemoria per questo c'è anche in fondo al libro una serie di schede sui diritti del cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione. Esatto. Come il diritto al risarcimento, il diritto alla giustizia, il diritto appunto ad essere informati, di sapere che cosa richiede la pubblica amministrazione e perché. E poi c'è anche qualche piccolo manuale pratico su cosa fare nel caso di contrasti o conflitti con la pubblica amministrazione, che cosa vuol dire autotutela e così via. Un altro pregio di questo libro è il fatto che ha un glossario per capire appunto i termini fondamentali dell'economia, soprattutto dell'economia pubblica, dell'economia di cui si parla spesso, dei conti dello Stato, del bilancio dello Stato e così via. Quindi con Dino Pesole abbiamo parlato del libro Il Patto, cittadino e Stato dal conflitto alla nuova civiltà fiscale, edito dal Sole 24 Ore. Al Festival di Trento Pesole ha avuto un buon successo. Sì, direi di sì, ho visto che c'è stata molta attenzione. D'altro canto questo tema dell'evasione, ma non solo, della nuova civiltà fiscale è percepito come attuale. Speriamo di aver dato un contributo in questa direzione. Grazie a Dino Pesole, grazie a quanti ci hanno ascoltato. Grazie direttore, grazie.